as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Allora, oggi penso che sia l'ultima puntata prima dell'estate. La dedichiamo ad una vertenza che avevamo seguito un po' di tempo fa, una fabbrica che rischiava la chiusura e tutti gli operai rischiavano di essere licenziati. Parliamo della Trakmek, un'azienda tedesca che produce sottocarri, quelli là cingolati, no? Avete presente quei specie di carri armati che in realtà vengono utilizzati per trasportare materiali, trasportare mega gru e altre strutture del genere, cingolati, che purtroppo vogliono chiudere a Mordano, provincia di Imola, questa azienda che vedeva coinvolti quasi un centinaio di lavoratori. Purtroppo, insomma, a un certo punto si sono trovati questi lavoratori da un giorno all'altro, pensate che stavano volevano rinnovare il contratto interno, a un certo punto gli hanno detto no, qua chiudiamo, tutti a casa, senza cassa integrazione, senza nulla. Una battaglia veramente dura, giorno e notte i lavoratori hanno presidiato i cancelli, non hanno permesso di smontare macchine, di portare via quello che loro avevano prodotto, è stato molto importante. Questo io sono stato lì presente, un giorno in cui è arrivata anche la Digos, c'era stato una preoccupazione che volevano veramente fare una forzatura con la polizia, abbiamo impedito che a questo accadesse. E insomma, cioè, si è riaperta trattativa, hanno visto che i lavoratori non mollavano, questa multinazionale è abituata a chiudere stabilimenti così come se nulla fosse, a mandare a casa famiglie senza nessun problema, hanno capito che nel nostro territorio non lo puoi fare così, non ti è concesso licenziare, chiudere stabilimenti, speculare così, senza pagare uno scotto. Abbiamo intervistato Marco Valentino, segretario della FIOM di Imola. Adesso sentiamo un bellissimo pezzo che ci ricorda cosa sono i padroni. E poi sentiamo Marco Valentino e poi ci sentiamo per le conclusioni. A dopo. No feo sin cento, paiso astro mudo, batendo asas, una noite calada, venien en bandos con pez de veludo, chuparo sangue fresco da manada. A todas partes llegan los vampiros, posan los predios, posan las calzadas, traenos el ventre de esposos antiguos, mas nada os prende las vidas acabadas. Eles comen todo, eles comen todo, eles comen todo e non deixan nada. Eles comen todo e non deixan nada. Nada de nada. Echando medo, toman los vendidos, oen sus gritos, na noita papada, sacen los fosos, víctimas de un credo, e non se esgota, o sangue da manada. Son los mordomos do universo todo, amos a forza, donos en ley, enchen as tuyas, beben viño novo, danzan a ronda, no pinal do rey. Eles comen todo, eles comen todo, eles comen todo e non deixan nada. Eles comen todo e non deixan nada. Nada de nada. Eles comen todo, eles comen todo. Allora, siamo qui a Roma al Comitato Centrale e incontriamo Marco, il nostro segretario di Imola, che, se vi ricordate, abbiamo intervistato al presidio in questa vertenza che ha smosso tantissimo il titolo di Imola, ma non solo, e da lui adesso lui chiederemo aggiornamenti. Adesso ci racconterà, insomma, di che cosa stiamo parlando e a lui chiederemo, perché abbiamo visto sui giornali delle notizie che a noi sembrano positive. Sì, allora, rispetto a quello, insomma, la vertenza e la lotta che è stata portata avanti dalle lavoratrici e dai lavoratori in Tracmec, la notizia positiva è che l'azienda ha ritirato i licenziamenti, quindi la procedura di licenziamento collettivo è avviata in data 16 aprile, grazie alla lotta e alla determinazione delle lavoratrici e dei lavoratori è stata ritirata. Quindi si è aperto un percorso di trattativa, cioè abbiamo portato l'azienda a fare una trattativa con noi, quindi ai tavoli prima istituzionali, perché comunque si sono presentati anche ai tavoli istituzionali, mettendo comunque a conoscenza anche le istituzioni, come nelle interviste precedenti avevamo anche detto che comunque si sono sempre rese disponibili a sostenere appunto la nostra lotta. Quindi da lì poi si è aperto un percorso con l'azienda dove non solo sono stati ritirati i licenziamenti, ma si è arrivati anche a sottoscrivere un accordo, e in questo accordo sono previste un po' di di situazioni che ci portano insomma a avere delle speranze sul sito, sullo stabilimento di Nordano. E le puoi dire queste? Certo, noi abbiamo naturalmente il ritiro dei licenziamenti era la condizione principale per poter intavolare un discorso con il gruppo tedesco. Dopodiché abbiamo sottoscritto un accordo dove in questo accordo non solo è prevista un periodo di solidarietà fino al 31-12 che permette ai lavoratori maggiore serenità, maggiore tranquillità nell'affrontare questa situazione qui, ma in questo accordo qui punto principale è la reindustrializzazione del sito. Infatti noi abbiamo già in previsione nuovi tavoli istituzionali con la regione e con la città metropolitana proprio per cercare di capire se ci possono essere le condizioni. Noi le abbiamo chieste sin dall'inizio queste condizioni, le abbiamo poste di poter reindustrializzare il sito attraverso anche qualche manifestazione di interesse. Dopo su questo accordo è stato anche previsto appunto la cassa, la solidarietà, quindi un contratto di solidarietà fino al 31 dicembre con eventuale proroga di cassa integrazione straordinaria nel momento in cui diciamo non abbiamo trovato soluzioni alternative. È previsto anche questo, lo dico per, insomma, per trasparenza, anche la possibilità al lavoratore che in maniera autonoma si ricolloca, quindi l'uscita volontaria anche con un incentivo. E quindi diciamo che rispetto anche a quelle che sono state le assemblee poi svolte con i lavoratori e con le lavoratrici, questo tipo di accordo, che è un accordo che secondo noi è un accordo pulito, nel senso che appunto trasmette serenità e maggiore tranquillità ai lavoratori, è stato approvato all'unanimità e quindi siamo in queste condizioni qui. Ecco, io quello che ho sempre detto alla chiusura, appunto alla sottoscrizione dell'accordo che è arrivato il 29 di maggio, ho sempre detto questa è come una partita di pallavolo. Noi abbiamo vinto un primo set, questo set lo abbiamo vinto perché come si diciamo orgogliosamente possiamo dire, la lotta paga e la lotta delle lavoratrici e dei lavoratori insieme alle organizzazioni sindacali sulla Tracmec, cioè possiamo dirlo tranquillamente, ha pagato. Ricordiamo a tutti che eravamo davanti ai cancelli e i lavoratori insieme alla FIOM hanno impedito che fondamentalmente questo sito venisse smantellato, no? Dunque diciamo la cosa più importante è che esiste un piano industriale ipotetico di reindustrializzazione. Allora, sicuramente non da parte del gruppo tedesco, perché Le loro intenzioni loro le hanno manifestate sin da subito e probabilmente le vorranno mantenere, portare fino alla fine. È chiaro che però quello che noi abbiamo fatto, e ripeto, la lotta è stata fatta nella consapevolezza che era una battaglia molto difficile, perché ripeto non è finita, e l'abbiamo fatta nella consapevolezza proprio di poter prendere tutto il tempo necessario per un'eventuale reindustrializzazione, che è l'obiettivo principale. Poi è chiaro che lì il ruolo deve essere giocato anche da parte delle istituzioni, quindi su questo confidiamo l'impegno da parte soprattutto della Regione Emilia Romagna, ma della città metropolitana, ma ripeto era importante mantenere le, diciamo, non permettere a un gruppo multinazionale tedesco di venire a fare quel che voleva qui sul nostro territorio, e quindi di conseguenza la vittoria che i lavoratori sentono proprio è proprio questo, cioè non è passato il principio della delocalizzazione a prescindere e unilaterale. Certo, voi state dicendo praticamente che laddove questo gruppo industriale continui a dire io me ne voglio andare, voi dite tu te ne puoi anche teoricamente andare, ma noi vogliamo che le istituzioni si facciano garante e insieme al sindacato di trovare qualche gruppo industriale che possa rilevare il sito, che il sito non venga oggetto di speculazione, perché ti ricordi era una delle nostre preoccupazioni più grandi, che quel sito lì diventasse una forma di speculazione, diventasse più importante non quello che si producesse, ma il posto che era per poterci fare qualcos'altro, perché parlavamo comunque di un personaggio che era arrivato, che si occupava di questioni immobiliari, dunque il rischio c'era. Dunque voi state dicendo, noi vogliamo tenere la produzione industriale che si produce lì in quel sito, compresa anche l'occupazione dei lavoratori che rimarranno, perché ci sono delle competenze, ci sono delle capacità, ci sono anche degli impianti, perché poi sugli impianti come si svolgerà? Dovranno comprare tutto che dovesse entrare? Allora, sul discorso degli impianti sicuramente il mio punto di vista, per come conosco l'azienda, per come è impostata, è complicato anche secondo me da parte loro andare a smantellare tutto, perché a parte che parliamo di impianti di produzione al netto di quelli che sono gli impianti di saldatura classici, ma ci sono impianti di lavorazioni meccaniche che sono impiantati a terra e sono anche di grosse dimensioni. Parliamo dalla semplice macchina a controllo numerico, diciamo piccola, dalla semplice rettifica, ma parliamo anche di impianti proprio di lavorazione meccanica molto grossa e molto grandi. Quindi su questo sicuramente c'è anche quell'aspetto da tenere in considerazione. E, il fatto di reindustrializzare il sito è qualcosa, è quello che noi ci aspettiamo. Ripeto, siamo in una fase, naturalmente adesso appena sottoscritto l'accordo, quindi in una fase di verifica anche di quello che è effettivamente come maestranze rimarranno dentro, perché poi i lavoratori effettivamente chi ha la possibilità di ricollocarsi, anche perché sono figure, come dicevi, molto professionalizzate, e quindi le aziende stanno iniziando, anche altre aziende li stanno ricercando, e quindi c'è anche la possibilità per loro di ricollocarsi. Dobbiamo vedere quanti lavoratori diciamo, possiamo dire, terranno botta fino alla fine, e poi da lì fare una valutazione. E il tavolo che noi abbiamo richiesto in regione serve proprio a quello, per fare una prima per esaminare un po' e per verificare lo stato delle cose e poi fare ulteriori passaggi. E, ti dico, di quanto è l'incentivo all'esodo? Parliamo di arrivano fino a un massimo di 12 mensilità, che non è tantissimo, ma comunque sono mensilità che loro comunque hanno accettato. Ripeto, ci sono anche quei lavoratori che e noi naturalmente li sosterremo fino alla fine, vorranno provare di mantenere il loro posto di lavoro, di mantenere il loro posto di lavoro con o senza Trackmac. Questa è la partita che al momento è più complicata, però ripeto, noi ce la metteremo tutta, cercheremo comunque in tutte le sedi di poter trovare un possibile, noi o comunque chi avrà questo compito, di trovare un possibile acquirente per questo sito produttivo. Sul discorso della speculazione dello stabilimento, sì, questo è un rischio, anche lì stiamo monitorando la possibile intenzione da parte dell'azienda di vendere, ma allo stato attuale ci risulta che comunque loro quello stabilimento lo manterranno per fare altro, ma probabilmente lo manterranno come negozio, chissà, per fare altro. Sì, come commerciale. Adesso è chiaro che, ripeto, il tavolo ci serve proprio per capire a che punto siamo, ecco. Ok, va bene, ti ringrazio e noi siamo sempre con voi. Grazie a voi. Questa battaglia l'hanno vinta. Stiamo parlando della battaglia dei lavoratori della TACMEC. Abbiamo sentito Marco Valentini, segretario della FIOM di Imola, che ci ha raccontato come sta andando avanti questa vertenza, che non è chiusa completamente, però certamente sono riusciti a ottenere dei buoni risultati. Avete ascoltato la puntata, per chi non se la fosse persa può trovarla in podcast alla pagina del Panele Rosa. Ora, io dico solo una cosa: bisogna fare le battaglie, le uniche battaglie che si perdono sono quelle che non vengono fatte. Questo vale per tutte le vertenze, vale per tutte le rinnovi contrattuali, vale sempre. Certamente abbiamo bisogno di leggi, di sindacati che si impegnino a fare delle battaglie, perché in questi casi si cerca sempre, come avete sentito, qualcuno che rilevi l'azienda. Sappiamo che i compagni del GKN sono sotto sgombero perché questo non è riuscito a loro. Sappiamo che anche la Saga Coffee ha avuto dei problemi. Spesso quando si trova il compratore può diventare un cavaliere bianco, come spesso accade. Anche la Perla, abbiamo visto che c'è stato un compratore. Certo, queste sono le soluzioni che il sindacato trova, anche perché lo Stato si disinteressa completamente. Invece noi del Panele Rosa siamo per la nazionalizzazione sotto il controllo operaio delle aziende in crisi. Dobbiamo cominciare a parlare di questo, dobbiamo cominciare a pensare che le fabbriche possano andare avanti anche senza padroni, però devono essere nazionalizzate, perché c'è bisogno dello Stato, e questo è il nostro auspicio. Speriamo che un giorno il sindacato lotti veramente verso questa prospettiva. Vi saluto e ci sentiremo alla prossima puntata. Non so se succederà qualcosa di importante, la faremo, altrimenti direttamente a settembre. Ci vediamo a settembre, dai.